son donna qual credi. Così dunque, il vergine reale, il grado, il nome affetti. Amor che cieco, per te piago il cuore, mi perdi quell'inganno. Un mentitor tanto s'avanza, spargi i tuoi voli, i tuoi sospiri al vento. Otterrò tuo dispetto, e tu ben sei la palma. Tu di Tarquinio, tosto caderai svelato. Son vinto, uccidimi. A che parti? Al nome invinto del mio valor feroce, io non consacro vittime così vili. Ora se te lo capito su costui, perfido fato. Si grand'uomo mi recasti, signor, pietosa ita, a te deggio l'onor, a te la vita. E che costui, coso superbo evento, te lo farà la tua man. Nobil donzella, si finse pria, moscia s'armò d'acciaro. Signor!